se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera? Ti senti solo, vuoi che resti con te? Ma sì, parliamo un po'. Io dormire no, proprio no. Dai, camminiamo insieme per questa strada vuota e dimmi tutto di te, della tua vita. Dai, comincia tu. Occhi scuri, stessi capelli, andiamo a caccia di notte come i gatti neri, ci troviamo sopra i tetti tutti quanti, sotto una grande luna che, oh, oh, oh, oh, che mio padre ogni sera corre fuori a guardare, mentre, oh, oh, oh, oh, oh, mia madre lì alla finestra guarda sempre. Sera resto solo, si potrebbe andare al cinema, mangiare un gelato, poi si blocca a sorridere. Potessi darmi un bacio, presto dammi un bacio. Se lui avesse già le orecchie per potermi ascoltare e una testa in mezzo da carezzare, gli direi: sono un uomo, tutti mi chiamano giù temerario, faccio mille acrobazie con il mio aeroplano, 10.000 volte ho già toccato il cielo, perché come un falco io, oh, oh, oh, oh, arrivo a 3.000 metri e poi mi butto giù in picchiata, oh, sono solo. Cosa dici, andiamo al cinema, magari a